Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Salari ai minimi e unione sulla sanità, così l'Europa è pronta a uscire dalla crisi, il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso all'Europarlamento. Recovery Fund, ecco i progetti del governo italiano in un documento di 38 pagine, Conte sono pronto a riferire alle Camere. Ancona brucia un capannone nel porto della città, scuole chiuse, a lavoro 16 squadre dei vigili del fuoco. Clima, secondo un nuovo rapporto degli scienziati, l'Italia rischia entro 80 anni un aumento di 5 gradi della temperatura. Buongiorno Alessio Maurizi, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con l'atteso discorso di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea all'Europarlamento, parlando sullo stato del discorso, sullo stato dell'Unione. Ursula von der Leyen ha toccato vari argomenti e ha citato anche la possibilità di fare un salto in avanti sul tema dell'Unione Europea per quanto riguarda la sanità, e anche a proposito di un vertice che sarà organizzato proprio anche grazie alla collaborazione con il governo italiano. Allora, cominciamo da qua. Un discorso di ben 80 minuti con una visione per l'Europa che verrà sullo sfondo della più grave crisi pandemica da un secolo a questa parte. Lo stato dell'Unione pronunciato a Bruxelles dalla presidente della Commissione von der Leyen guarda innanzitutto avanti verso le sfide che attendono il continente. The moment for Europe to lead the way from this fragility. È il momento per l'Europa di uscire dalla fragilità e infondere nuova vitalità, ha detto. Tra i punti principali menzionati dalla presidente della Commissione, la necessità di costruire un'Unione della sanità. A questo proposito l'annuncio che il prossimo anno, sotto presidenza italiana del G20, si organizzerà un vertice globale sulla salute, probabilmente a Roma. Il Green Deal si conferma perno della ripresa post-pandemica. Il 37% del Recovery Fund sarà speso su obiettivi legati a clima e sostenibilità, precisa la von der Leyen, che conferma le indiscrezioni secondo cui Bruxelles proporrà di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. Spazio anche all'economia sociale. La presidente della Commissione ha affermato che tutti nell'Unione Europea devono avere salari minimi. Bruxelles avanzerà una proposta su una normativa in tal senso. Non solo, la Commissione annuncia una nuova strategia per Schengen e presenterà la prossima settimana un nuovo patto sulla migrazione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre dall'Europa arriveranno i fondi del Recovery Fund. Proprio in queste ore l'Italia ha fatto un passo in avanti nella scelta dei progetti da presentare in Europa. Il Presidente del Consiglio Conte ha inviato una relazione alle Camere con un documento di 38 pagine dove ci sono i criteri ma anche i progetti concreti, veri e propri. Sentiamo. Si compone di 38 pagine e 32 slide la proposta delle linee guida per la definizione del piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund. Le linee guida con 6 missioni e aree di intervento da equità, green, dal fisco alla giustizia fissano criteri stringenti di ammissibilità alle risorse del Recovery Fund per progetti da finanziare, via libera in base all'impatto e ai costi, meno tasse sui ceti medi e sulle famiglie e obiettivo raddoppio del PIL, più lavoro, digitalizzazione dalla rete unica al 5G. E il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, oggi all'esecutivo ABI, parlando di crisi pesantissima dalle conseguenze incerte, sottolinea che il programma Next Generation EU rappresenta una occasione importante da non perdere. E intanto sul fronte dei numeri dell'impatto economico della pandemia, l'OCSE parla di peggiore crisi dalla seconda guerra mondiale, giù del 4,5% il PIL a livello globale nel 2020, crescita nel 2021, PIL dell'Eurozona giù del 7,9% nel 2020, ma ci sarà un più 5,1% nel 2021 e il PIL dell'Italia scenderà del 10,5% nel 2020, anche qui però con un rimbalzo del 5,4% nel 2021. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di poco fa, la Lega ha presentato al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina per quella che viene definita una disastrosa gestione della scuola. E sempre a proposito di politica, della giornata politica, a poche ore, a pochi giorni dal voto per il referendum e per le regionali, sentiamo. Referendum e regionali si intrecciano ancora una volta con il post voto e con la necessità di rimpasto nel governo lanciata dal PD ad intervenire il segretario Dem Nicola Zingaretti. Non c'è nessun patto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma dopo le elezioni si apriranno delle valutazioni. Zingaretti è convinto anche che in Toscana la partita sia ancora aperta. Il sì al referendum è per avviare un processo di riforme. Di rimpasto però non vuole sentir parlare Luigi Di Maio, così a 24 Mattino. Non mi affascina questa parola come non affascina i cittadini. I cittadini non vogliono un rimpasto, vogliono il lavoro. Significa ricominciare molto spesso da capo e questo non è funzionale a quello che stiamo facendo. Intanto il problema delle mancate alleanze tra PD e 5 Stelle per le regionali resta. L'accordo è stato stretto soltanto in Liguria, dove il governatore uscente Giovanni Toti e il centrodestra sono dati per favoriti. Centrodestra che si presenta unito in tutte le sfide per le regionali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la cronaca, cominciamo con l'incendio di grandi proporzioni che è divampato nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite poco dopo la mezzanotte, ma 16 squadre dei vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domarlo. Le fiamme sono partite attorno alla mezzanotte da un capannone, forse a causa di un cortocircuito di un muletto di caricamento, ma sono in corso ulteriori indagini. A far paura ora è la gigantesca nube di fumo che sovrasta la città di Ancona. Una nube visibile a distanza di chilometri, raccontano i vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere e contenere l'incendio. C'è un bel fungo di fumo, insomma, sulla città, quindi... Ma si vede da una trentina di chilometri di distanza? 16 squadre di pompieri al lavoro, 50 persone venute anche da Macerata e Pesaro. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altro materiale potenzialmente tossico. Si ipotizza che siano esplose alcune bombole di acetilene. In molti raccontano di aver udito diversi boati. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono vittime. Per precauzione sono state chiuse le scuole. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Papa durante l'udienza generale ha ricordato oggi Don Roberto Malgesini, il sacerdote della diocesi di Como, che ieri mattina è stato ucciso da una persona, un senzatetto con problemi psichici che lui aiutava e che poi ha confessato di averlo ucciso. Sentiamo le parole di Francesco questa mattina. Desidero ricordare in questo momento Don Roberto Malgesini, che ieri mattina è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava. E come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio, di questo testimone della carità verso i più poveri. Torneremo a parlare della figura di Don Roberto Malgesani nella seconda parte, nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso le altre notizie, andiamo all'estero. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha bombardato oggi la striscia di Gaza dopo che dai territori palestinesi erano partiti dei razzi diretti verso Israele in occasione già ieri sera della firma a Washington degli accordi sulle relazioni tra Israele ed Emirati. Israele è il primo paese al mondo a imporre un secondo lockdown nazionale e, secondo i dati del Ministero della Salute, che ha registrato più di 5.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, è anche al primo posto nella classifica globale per numero di nuovi casi in rapporto alla popolazione. Con i dati di adesso e gli ospedali sempre più in difficoltà, la seconda ondata di Covid-19 ha costretto il governo a prendere la contrastata decisione di richiudere il paese a partire da venerdì per 3 settimane, quelle delle festività ebraiche di Capodanno, giorno di Kippur e festa delle capanne. Si teme che i grandi raduni di preghiera si trasformino in focolai incontrollabili. Il rientro del premier Netanyahu da Washington è funestato da due grosse grane: da un lato le accese proteste della popolazione contro il lockdown, anche per le sue devastanti conseguenze economiche, dall'altro la sicurezza dei connazionali al sud, raggiunti nella notte da una raffica di razzi dalla striscia di Gaza, violenta reazione di Hamas contro i patti tra paesi arabi e Israele. Fabiana Magri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con 872 milioni di bambini in età scolare di 51 paesi, la metà della popolazione studentesca mondiale, circa 872 milioni di bambini in età scolare non sono ancora in grado di tornare a scuola a causa del coronavirus. È l'allarme che è stato lanciato questa mattina dal direttore esecutivo dell'UNICEF, Henrietta Fore. In Italia, invece, novità, perché è in arrivo un nuovo test salivare. Nuovo scontro Stato-Regioni sulle regole anti-Covid, con i ricorsi del governo già presentati contro le ordinanze del governatore sardo Solinas, che impone test o autocertificazione per chi entra in Sardegna, e quella del presidente piemontese Cirio, che impone alle scuole di provare la febbre agli studenti o controllare l'autocertificazione delle famiglie. Già oggi o domani i TAR decideranno se sospendere le ordinanze. Intanto arriva dalla multinazionale italiana di Assoring la notizia che il suo nuovo test salivare sul Covid-19 ha ottenuto la marcatura CE. Con un prelievo di saliva senza bisogno di operatori sanitari, il test darà risultati in pochi minuti. Sarebbe una svolta dove servono test rapidi come in aeroporti o scuole e per aumentare i tamponi giornalieri, ma il Ministero della Salute non ha ancora dato la sua autorizzazione all'utilizzo. Intanto a livello mondiale il Covid viaggia verso i 30 milioni di casi e 1 milione di morti, con gli Stati Uniti sempre in testa in valori assoluti, ma Israele balzata in testa alla classifica per numero di casi rispetto alla popolazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era una notizia che riguarda l'ambiente: un blocco di ghiaccio grande come tutta la città di Firenze si è staccato dalla Groenlandia ed si è spaccato e si è trasformato in una serie di enormi iceberg. Il colosso di oltre 110 km quadrati, che è monitorato dagli scienziati, si è staccato il 24 luglio scorso, ma le immagini sono state diffuse soltanto poche ore fa dall'Agenzia Spaziale Europea. E il riscaldamento globale riguarda anche l'Italia. Nel rapporto della Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici si stima infatti un possibile aumento fino a 5 gradi della temperatura nei prossimi 80 anni. Il 37% di Next Generation EU sarà investito in progetti verdi, ha assicurato la presidente von der Leyen, e ce ne sarà bisogno per arginare il cambiamento climatico che ormai è avviato. Il rapporto sull'analisi del rischio in Italia, presentato dalla Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, stima infatti un aumento della temperatura fino a 2 gradi entro il 2050, con variazioni superiori nelle zone alpine e nel periodo estivo. La questione è economica, non solo perché ci investiremo come europei, ma perché se non l'affrontiamo ci colpirà duramente. Donatella Spano, dell'Università di Sassari e advisor del Centro Euromediterraneo. Gli aumenti di temperatura fino ai 2 gradi limitano le perdite con un valore di circa 0,5 del PIL. Se pensiamo ad un aumento fino a 4 gradi, perdite di PIL pro capite possono arrivare anche all'8%. Il che aumenterà le disuguaglianze economiche come conseguenza del dissesto idrogeologico, gli impatti sull'agricoltura, il turismo e gli ambienti urbani. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, facciamo una piccola pausa. Dopo la sintesi della giornata di oggi con le principali notizie, riprendiamo dopo le informazioni sul traffico con i nostri approfondimenti. Ripartiremo dalla situazione in Medio Oriente, dove già dopo la firma dell'accordo di Washington ci sono stati bombardamenti da Gaza verso Israele e la risposta israeliana diretta verso i territori. Dunque cercheremo di capire l'accordo di pace firmato a Washington, che tipo di conseguenze ha nello scenario medio orientale. Ci sentiamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. L'Europa sia più verde, sia anche all'unione sanitaria e salari minimi, così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Recovery Fund, ecco i progetti del governo, Conte, sono pronto a riferire alle Camere. Scuola, la Lega presenta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Azzolina. Medio Oriente, razzi dai territori palestinesi su Israele all'indomani dell'accordo di Washington, ne parliamo tra poco. La morte di Don Roberto Malgesini a Como, oggi l'autopsia, poi i funerali in Duomo allo stadio. 13 e 16 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, come anticipato, torniamo in Medio Oriente a parlare della cronaca delle ultime ore e anche delle conseguenze dell'accordo di pace firmato tra Israele, Emirati e Bahrain a Washington ieri. È con noi Ugo Tramballi, giornalista, consigliere dell'ISPI. Buongiorno Ugo, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, che cosa può significare questa ripresa delle ostilità in Medio Oriente? I rappresentanti palestinesi avevano detto di essere contrari a questo accordo. Quali sono le ragioni di questa contrarietà e qual è la cronaca delle ultime ore, Ugo? Ma 15 razzi di Hamas, non dei palestinesi, non dalla Cisgiordania, dall'autorità palestinese, ma da Hamas, da Gaza, sono una prova della disperazione e dell'inutilità di una situazione, perché è vero che in questa vicenda tra israeliani e palestinesi c'è un chiaro occupato e un chiaro occupante, però se i palestinesi sono occupati da così tanti anni forse dovrebbero fare anche un esame di coscienza politica sulle tattiche e le strategie che hanno utilizzato in tutti questi anni. E invece, per quanto riguarda più in generale questi accordi che sono stati firmati a Washington, che significato possono avere, diciamo, poi nella storia, anche inquadrati così nella storia delle relazioni medio orientali, e quanta pace in più possono portare, vista anche appunto però la cronaca di queste ultime ore? Ma vedi, da inviato del Sole 24 Ore nel 93 o dalla Casa Bianca ad assistere alla firma degli accordi di Oslo fra Rabin e Arafat, e tutti sprecammo forse fin troppo la definizione di accordi storici, sappiamo come è andata a finire, quindi anche per quanto riguarda questi accordi certamente comunque è importante, comunque è un accordo di pace anche se incompleto, anche se non molto chiaro, però appunto io per esperienza aspetterei a definirli storici. Otto von Bismarck sosteneva che chi ama le leggi e chi ama le salsicce è meglio che non veda come le une e le altre vengano fatte. La situazione l'accordo è pieno di caveat che appunto non sono chiari su come sul futuro si svilupperà, soprattutto sul fatto che gli arabi che hanno fatto la pace con Israele continuano a dire che non ci sarà mai più un'annessione, anzi che ci sarà prima o poi uno stato palestinese, mentre invece certamente la destra che ha eletto e che sostiene Bibi Netanyahu invece sostiene che non dovrà mai nascere uno stato palestinese. Quindi c'è un problema anche politico all'interno di Israele sul fatto che possa nascere o meno veramente uno stato palestinese. Dicevi, ci sono molti aspetti poco chiari di questi accordi. Quali sono invece gli aspetti, diciamo, i punti principali, le cose che si possono dire, le cose chiare di questo accordo, che cosa possono significare? Beh, in una regione appunto che sappiamo che è la fonte principale di conflitti, di produzione di migranti, che ci sia comunque un accordo di pace, anzi due accordi di pace, è comunque un'eccellente notizia, forse non entrerà nella storia ma resta sicuramente un'eccellente notizia. Naturalmente il quadro generale resta completamente diverso, cioè appunto i palestinesi non ci sono, ma questo accordo è stato fatto per una geopolitica della regione, nella quale oramai il vero conflitto non è più quella per uno stato palestinese molto ritirato, molto indietro nelle priorità, ma è invece appunto lo scontro fra Arabia Saudita e Iran, fra sunnismo e sciiti, fra sunniti guidati da Arabia Saudita e tutti quelli che stanno facendo la pace con Israele, contro invece Erdogan, che è invece appunto ha deciso di diventare fratello musulmano, ha deciso di diventare invece lui il liberatore sunnita. E infatti questo porterà probabilmente i palestinesi ad essere a radicalizzarsi, cioè venendo meno i sostenitori più moderati, diciamo così, anche l'autorità palestinese di Ramallah, della West Bank, della Cisgiordania, guarderà verso Erdogan, verso l'Iran, verso Hezbollah e ovviamente verso anche Hamas. Ugo Tramballi, un'ultima cosa: Israele sta per diventare anche il primo paese al mondo ad effettuare un nuovo lockdown, annunciato peraltro con qualche giorno di anticipo, con qualche tempo di preavviso. Ha un significato particolare questo tempo che Israele si è data per arrivare al nuovo lockdown venerdì? Beh, il sistema sanitario israeliano è molto simile a quello della Lombardia, cioè grandi eccellenze, ma la sanità territoriale israeliana è molto mediocre, questo è un punto. Il secondo, era necessario fare questa chiusura, questo è il primo paese al mondo a fare una seconda chiusura, perché appunto Rosh Hashanah, cioè l'anno nuovo sta arrivando, il capodanno ebraico, e normalmente gli israeliani tendono a riunirsi in famiglia, cioè c'è un concetto familistico della vita sociale israeliana, e quindi per evitare tutto questo, anche perché poi l'elemento fondamentale della diffusione sono il fatto appunto che i religiosi ebrei, come gli arabi, anche loro tendono appunto a stare molto uniti come comunità, e quindi a rendere molto difficile il distanziamento sociale. Grazie Ugo Tramballi, giornalista dell'ISPI, grazie per il racconto della cronaca che arrivava appunto da Israele. Adesso restiamo all'estero per parlare di quello che accadrà in realtà domani, quando il presidente della Germania Steinmeier sarà a Milano e incontrerà il capo dello Stato Sergio Mattarella. Italia-Germania dunque un vertice importante per consolidare, questi diciamo sono i temi sul tappeto di questo incontro, la sintonia tra due partner anche economici, industriali dell'Unione. Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Ebling, sentiamolo al microfono di Gigi Donelli, partire dal dato di fatto di un gemellaggio che c'è tra i due paesi che riguarda oltre 400 comuni. Sì, diciamo che questi gemellaggi sono stati costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale in modo graduale e sono un'espressione della vicinanza della società civile della Germania e dell'Italia. Anche qui c'è una vicinanza naturalmente economica tra comuni dove aziende, manifatturiere delle due parti sono vicini, cooperano e sono integrate. Io direi che è un po' un riflesso generale della cooperazione delle società civili tra i due paesi. Ambasciatore, la pandemia che cambia l'Europa è stata titolata tra l'altro in questo modo. Come anche abbiamo sentito questa mattina nel discorso dell'Unione, della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, un cambiamento tra difficoltà e però grandi possibilità. Lei condivide questo approccio? Sì, l'Europa è sempre cresciuta nelle crisi e questa è una crisi che ci dà la possibilità di trasformarci, di investire nel futuro, nelle prossime generazioni, e se siamo in grado di fare questi investimenti in Europa in modo sostenibile, io sono convinto che avremo un'Europa più sovrana, più forte, più solidale, più sociale. Allora penso che è davvero una grande opportunità, abbiamo grandi mezzi anche finanziari che ci siamo dati e adesso si tratta di spenderli bene e di investire in questo futuro comune che abbiamo. Torniamo a parlare di Don Roberto Malgesini a Como, perché ci sarà l'autopsia, poi ci dovranno essere i funerali, a quanto sappiamo, o allo stadio o nel Duomo, dove ieri si era già radunata una folla, una grande folla silenziosa che ha ascoltato le parole del vescovo di Como, che ha detto un rosario nei confronti di Don Roberto, ucciso da un senza tetto con problemi psichici di origine tunisina che temeva forse di essere rimpatriato. E poi è stato arrestato, lui stesso ha confessato, un santo della porta accanto lo ha definito per la sua semplicità il vescovo di Como, Oscar Cantoni. È con noi il direttore della Caritas diocesana di questa città, Roberto Bernasconi, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno. Vorrei farle dedicare qualche parola nei confronti di Don Roberto, ce lo descriva, chi era Don Roberto Malgesini? Don Roberto era un uomo innanzitutto, e poi era anche un prete però un po' particolare, a lui stava stretta la parrocchia, stavano strette le attività che si compiono all'interno della parrocchia che pur faceva, e lui aveva il bisogno di vivere la sua fede, di vivere la sua missione nella strada, in mezzo alla gente, partendo proprio dai più piccoli, dai più umili, dai più affaticati, dai carcerati, e lì esprimeva veramente profondamente tutto il suo essere prete. Era un uomo anche molto schivo, a lui non piaceva raccontare quello che faceva, se arrivava qualcuno per una fotografia, se arrivava qualche giornalista per un'intervista, lui scappava perché non riusciva a capire un po' questa parte della società. Ha vissuto pienamente fino in fondo la sua vita per il rapporto con gli ultimi. Era allergico agli aspetti formali, forse istituzionali, anche del suo ruolo, invece amava viverlo in prima persona pienamente. Senta, le voglio chiedere questo, Bernasconi, c'è secondo lei un particolare contesto nel quale questa vicenda si inserisce, un contesto di tensioni sociali in città, nel nostro paese, di povertà, di degrado, oppure si è trattato anche di una fatalità? Può sembrare brutto dirlo, ma insomma, avere a che fare tutti i giorni in prima persona, esporsi così tanto con persone in difficoltà, in quelle condizioni, diciamo, si mette in conto sicuramente anche una percentuale di rischio personale. Lei che cosa ne pensa? Sì, lui lo faceva, però io non credo alle fatalità, credo che poi alcuni gesti delle persone sono reazioni ad una società che li emargina, che non li capisce, che li mette un po' da parte. È un po' quello che sta succedendo a Como in questi anni, dove c'è una parte della città che vive questa idea dell'accoglienza e un'altra parte che invece nutre un'avversione grossa per chi è diverso, per chi ha un colore della pelle diverso, per chi arriva da noi in ricerca di una possibilità di vita. E tutto questo sembra che non riesca a trovare una sintesi. Adesso io non sto facendo un discorso politico o di parte, ma è proprio la gente che vive nel suo interno queste paure che poi portano a queste divisioni e che poi queste divisioni si trasferiscono anche sulla qualità di vita anche di queste persone che vivono in strada. Dopo è vero, questa persona aveva i suoi problemi anche psichici eccetera, però è profondamente frutto di questa divisione che non riusciamo a risolvere all'interno della nostra città. Senta, Roberto Bernasconi, lo ricordo, direttore della Caritas di Como, voglio chiedere più in generale sul fenomeno anche dell'emarginazione, della povertà, che è un po' anche il modo in cui si dovrebbe, io credo, anche misurare il grado di civiltà di una società, il modo in cui la capacità, la forza che ha di trattare gli ultimi, veramente, chi non ha una casa, chi non ha un lavoro, chi non ha una famiglia. Le voglio chiedere, insomma, in questi anni in Italia, per esempio c'è stato il reddito di cittadinanza, ieri c'è stato il dato, 3 milioni di persone hanno ricevuto un sussidio economico, prima non lo avevano, riguarda anche questo la lotta alla povertà, ci sono tanti aspetti, no, in questo mondo. Le voglio chiedere se secondo lei, per la sua esperienza nella città di Como, anche in riferimento a quello che diceva poco fa, stiamo riuscendo a controllare questo fenomeno della povertà, dell'emarginazione, a tenerlo sotto controllo, a monitorarlo, a dare un sostegno veramente a queste persone, oppure nel corso del tempo questo fenomeno ci sta un po' sfuggendo di mano? Credo che ci stia sfuggendo un po' di mano, perché è difficile. Noi facciamo tutto un lavoro di prima sussistenza, chiamiamola così, perché chi ha bisogno di mangiare gli si dà da mangiare, chi ha bisogno di pagare le bollette gli si dà questo, però poi manca tutta l'altra parte, che è quella di far sì che queste famiglie, che queste persone riescano poi in modo autonomo a rigestire la loro vita. Noi in questi anni abbiamo fatto ad esempio un fondo lavoro sulla diocesi che ha distribuito 1 milione di euro su un migliaio di famiglie. La maggioranza di queste famiglie poi non era neanche straniere ma italiane, per cui nella ricca Lombardia, nella ricca città di Como, ci sono queste contraddizioni grosse. E se non, per quello che io dicevo, se non troviamo il modo di lavorare assieme, dove ognuno mette a disposizione la sua caratteristica, non ne verremo più fuori, ma andremo avanti a fare della sussistenza. Io la ringrazio, Roberto Bernasconi, le chiedo un'ultima cosa, anche se già partita la base che ci porta verso il saluto alla fine della diretta. Per quanto riguarda la possibilità di dare l'ultimo saluto col funerale a Don Roberto, si sa qualcosa sui funerali, se ci saranno in Duomo o allo stadio, quello che è stato detto? Non si sa ancora niente, perché lì poi dipende dalla famiglia, la decisione spettava lei. Credo che domani ci sia l'autopsia e poi dopo si deciderà, quindi... Va bene, va bene. Non si sa ancora niente. Grazie al direttore della Caritas di Como. 13:30, facciamo un break, torniamo tra poco. 349-238-6666, se volete scrivere anche un messaggio nei confronti di questo sicuramente grande uomo che era Don Roberto. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi: salari minimi e unione sulla sanità, così l'Europa è pronta a uscire dalla crisi, il messaggio di Ursula von der Leyen. Recovery Fund, ecco i progetti del governo italiano, Conte sono pronto a riferire alle Camere. Ancona brucia un capannone nel porto della città, scuole chiuse. Clima, secondo un nuovo rapporto degli scienziati, l'Italia rischia entro 80 anni un aumento di 5 gradi della temperatura, ne parliamo tra poco. Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Molti messaggi per Don Roberto: riposa in pace, coerente con il messaggio del Vangelo, santo subito. Altri che invece, molti, se la prendono con le parole del direttore della Caritas Bernasconi, perché ha detto che questo omicidio, questa morte in qualche modo è da ricollegare al clima di intolleranza, alla mancata volontà di una parte dei cittadini della città di Como di accogliere gli immigrati, di accogliere gli stranieri. Ora io capisco che potete non essere d'accordo su questo, è giusto non essere d'accordo su un'affermazione del genere, però comunque bisogna, secondo me, vi invito ad ascoltare persone come Bernasconi, direttore della Caritas di Como, perché bene o male, che siamo d'accordo, favorevoli, contrari, su tutto quello che volete, queste sono persone che ogni giorno che passa, ci aiutano a vivere in un contesto migliore, ci risolvono un sacco di problemi. Se non fosse per gente come Bernasconi e la Caritas di Como, avremmo molte più senza tetto, molte più persone in giro, e anche con tutto quello che ne consegue. Quindi l'ascolto. Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. È il discorso dell'orgoglio di un'Europa ritrovata, quello di oggi di Ursula von der Leyen all'Europarlamento. In pochi mesi, di fronte alla devastazione della pandemia, ha impresso un cambio di rotta decisivo alle politiche dell'Unione. Da tedesca e con il decisivo aiuto della leadership di Angela Merkel, ha convinto i suoi connazionali e i falchi dei paesi del nord che è ora di mettere in comune parte del debito per far ripartire i paesi del vecchio continente. Non era né facile né scontato. Sono in campo 750 miliardi per il piano che si chiama Next Generation EU, nuova generazione europea, un nome azzeccato che guarda avanti, come guarda avanti l'annuncio del taglio anticipato al 2030 del 55% delle emissioni nocive, CO2 in testa. Guarda avanti anche la forma di cofinanziamento europeo per gli ammortizzatori sociali, il piano Sure o il programma di investimenti della BEI per le infrastrutture e ancora il famigerato MES, che ha questa fama solo in Italia. In tutto sono altri 540 miliardi. L'Europa di Ursula von der Leyen vuole uscire dalla fragilità del Covid verso una nuova vitalità, come ha detto lei stessa, e guarda a una forma di sanità comune che sarebbe davvero una rivoluzione. C'è un solo difetto: manca ancora un segnale forte nella gestione dei migranti. Su questo l'Europa la svolta non l'ha ancora fatta. Adesso è con noi Donatella Spano, membro della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, professoressa di agrometeorologia all'Università di Sassari. Buongiorno. Buongiorno. Professoressa Spano, le chiedo, avete appena finito di presentare questo ultimo rapporto, come si arriva a questa previsione di un aumento della temperatura fino a 5 gradi entro 80 anni nel nostro paese, diciamo nello scenario peggiore? Sì, abbiamo fatto un'analisi usando degli scenari di sviluppo economico e dei modelli molto dettagliati per quanto riguarda il territorio. Appunto, l'analisi per quanto riguarda sia le temperature, le precipitazioni, sia gli eventi estremi, peraltro stiamo già toccando con mano il discorso degli eventi estremi in termini di e precipitazioni molto intense oppure di giorni consecutivi senza pioggia, quindi di siccità, credo che siano i tre elementi fondamentali che fanno vedere come il clima cambia e quali saranno le proiezioni per il futuro. È chiaro che noi dobbiamo lavorare, la comunità scientifica offre tutti i risultati, tutti i dati possibili è a nostra disposizione. Questo è abbastanza confortante perché dà comunque elementi di conoscenza a degli impatti dei cambiamenti climatici, ecco, ma... quindi la possibilità sì. di lavorare su questi. 5 gradi in più nel nostro paese, lo ripeto, scenario peggiore, ce n'è anche uno peggiore. Che parla di 2 gradi solamente in più, però che cosa vorrebbe dire, cosa significherebbe per la vita, diciamo, nelle nostre città, nei posti che adesso conosciamo così come sono? Esatto, significa impatti piuttosto gravi in termini, per esempio, nelle aree urbane di ondate di calore, di piogge intense, e quindi un'amplificazione di tutti i rischi che possono essere presenti in questi ambienti, in particolare per la salute e per la sicurezza dei cittadini. Quando parlo di salute intendo aumento della mortalità in generale, soprattutto per anziani, bambini, il caso di malattie cardiovascolari, malattie respiratorie che sono senz'altro in aumento per via delle ondate di calore e per la qualità dell'aria. E poi l'incolumità delle persone per quanto riguarda invece appunto i rischi di alluvione, di frane, delle inondazioni. A scarico quindi della salute umana, ma anche delle infrastrutture e quindi dei beni e servizi che sono disponibili per tutti noi. Certo, e tutto questo, voi dite in questo rapporto, ha anche un costo economico che può raggiungere fino all'8% del PIL entro la fine del secolo, quindi un'emergenza, un grave danno per il pianeta, un grave disagio per le persone e anche un costo economico che poi ci toccherà prima o poi affrontare. Però c'è un'alternativa, almeno si spera, ed è quella di intervenire, cioè perché questi scenari sono fatti, diciamo, in assenza di interventi concreti. Invece che cosa si può fare, che cosa potrebbe fare l'Italia e quello che potrebbe fare un paese può avere effetto in quel paese, oppure il riscaldamento globale è un tema che va affrontato globalmente, diciamo, e basta? Il riscaldamento globale va da una parte affrontato globalmente, infatti si lavora a tutti i trattati internazionali, però dall'altra il paese deve lavorare per limitare i rischi, cioè per limitare i danni dovuti ai disastri, e questo può essere fatto con le strategie di adattamento. L'adattamento è fondamentale ed è locale, perché ogni territorio ha delle deve trovare le sue modalità, le proprie soluzioni. E questo vale investire sull'adattamento, significa proprio limitare i danni sia per le persone sia per i territori. E in particolare sono 4 i rischi su cui principalmente bisogna combattere: il rischio alluvionale, l'innalzamento del livello del mare, tutti i rischi a cui è soggetto il settore agricolo e il turismo. E naturalmente che sia quello estivo che quello invernale, e su questo limitando almeno su questi settori. Quando parlo di rischio alluvionale intendo quindi tutta la parte infrastrutturale del paese, quindi tutto il capitale costruito, le reti eccetera, su cui assolutamente bisogna investire, però bisogna anche dare spazio a tutti i settori produttivi, e credo che quello agricolo sia veramente molto importante. In pochissimi secondi davvero, perché poi dobbiamo chiudere, gli sforzi messi in campo dal nostro paese secondo lei che diciamo sono un po' in linea con quello che è l'andamento globale, si sta cercando di fare, ma si fa abbastanza? Ma io credo che si possa sempre fare di più, è come per la scienza, e quindi anche in questo caso maggiori impegni, ma ora abbiamo anche tante risorse che possono essere impiegate, e quindi anche questo report vuol dire questo, dare uno strumento in modo tale da guida, da base, certo, per gli indirizzi di investimenti. Grazie alla dottoressa Spano del Centro Euro-Mediterraneo per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Una fotografia della situazione attuale con le linee di sviluppo nel futuro da utilizzare proprio nel momento in quale a Bruxelles, nei stessi minuti, si sta discutendo su come rendere l'Europa più verde, su come investire i fondi, ingenti fondi europei del Recovery Fund. Torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba.